Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. I prezzi delle partite cambiavano a seconda della serie. 400.000 euro per la A, 120.000 in B e 60.000 in C. Ma a garanzia delle puntate qualcuno chiedeva pure titoli bancari. Ci sono i soldi, tanti, ci sono le minacce, gli avvelenamenti e pure l'ombra del riciclaggio mafioso nelle 611 pagine dell'ordinanza del giudice Guido Salvini che da Cremona travolge i campionati di B e C, contesta 18 partite e lambisce pure la massima serie. Anche Calciopoli era cominciata così, con una storia di scommesse in un campionato minore ed è stata poi la grande bufera del pallone che stavolta però, rispetto all'epoca, deve fare i conti anche con chi mette il calmante nel tè dei compagni di squadra. Ed è un altro pezzo di sport che svanisce, ascoltando le parole del capo della mobile, Sergio Lopresti. Abbiamo trovato le tracce della ricetta necessaria ad acquistarla. Il medicinale è il Minias, che è un comune ansiolitico, cioè è un doping al contrario. Quella sostanza è stata utilizzata, o sarebbe stata utilizzata, da uno dei tesserati della Cremonese per compromettere le prestazioni dei suoi compagni di squadra, probabilmente per un determinato scopo. Ecco, quando attiviamo dei servizi di intercettazione telefonica abbiamo la certezza assoluta che quel gesto, l'avvelenamento quindi in particolare, è riconducibile al calcio scommesse, perché Paoloni, il portiere, comincia a fare dei riferimenti, a entrare in contatto con alcuni individui che si occupano di pianificare incontri di calcio su cui scommettere. Altro che notti magiche o emozioni forti. Le partite qui si manipolavano anche con i calmanti per i giocatori, oltre che con i soldi, chiaramente. I soldi dei mediatori, dei calciatori e soprattutto degli scommettitori. Soldi, tanti, troppi, centinaia di migliaia di euro, gestiti anche da gruppi dai contorni incerti, come scrive il GIP. Un terreno fertile, secondo il giudice Salvini, per una criminalità organizzata ai più alti livelli. L'ombra delle mafie si allunga dunque ancora una volta sul mondo del calcio, e se gli affari della camorra sul pallone sono storicamente accertati, a fine aprile un maxi sequestro della procura di Reggio Calabria alla Cosca Pesce svelò gli interessi delle 'ndrine sul calcio, come racconta il colonnello della Guardia di Finanza Gerardo Mastrodomenico. Con riferimento alle scuole di calcio sono state sottoposte a sequestro la Sapri Calcio SRL e la Cittanova Interpiana, quali strumenti della Cosca per garantirsi consenso sul territorio. Calcio e malavita organizzata, un binomio che sembra condannato a ripetersi, visto che a quanto risulta a Storiacce altre indagini sono tuttora in corso in Campania sugli interessi dei clan napoletani. Noi tentammo una mani pulita del calcio, ma subentrò subito la restaurazione, riflette oggi Filippo Beatrice, uno dei PM di Calciopoli attualmente alla Procura Nazionale Antimafia, che parte dalle analogie tra l'indagine di Cremona e quella di Napoli. L'indagine di Cremona ricorda molto in alcuni aspetti di quella prima indagine che nacque nell'intorno al 2003-2004 e che aveva ad oggetto appunto alcune partite del campionato di Serie A di quella stagione. Gli elementi di analogia si ritrovano ad esempio nella figura di Stefano Bettarini, che attualmente è imputato. E anche in quel caso era chiamato il Bello. Sì, sì, sì. Noi lo individuammo come uno dei soggetti che nell'ambito di questo gruppo, che si collocava intorno ad una serie di calciatori che avevano militato in una squadra di serie C1 e che poi in un anno era stata anche in serie B, cioè il Savoia, una squadra di Torre Annunziata, tra di loro si contattavano e insieme a una serie di procuratori, di calciatori, gestori di punti di scommesse, cercavano di modificare anche il risultato di alcune partite di serie verso la fine del campionato 2003-2004. Già negli anni 80 c'era stato quel primo momento che aveva gettato luci e ombre su quanto ruota intorno allo sport nazionale e soprattutto alle scommesse, quindi Calciopoli, la vostra Calciopoli aveva riaperto tutti questi buchi neri intorno al calcio. Ma cos'è che non va in quel mondo delle scommesse, secondo lei? fatto che da ormai da un po' di tempo il mondo del calcio sia attraversato da momenti di forte opacità non può che far riflettere sulla serietà degli strumenti di controllo che l'ordinamento sportivo prevede in forme che probabilmente non sono più aggiornate. Il sistema delle scommesse sportive si è talmente allargato su scala internazionale che ormai è evidente che è esposto agli interessi dei gruppi criminali italiani ma anche stranieri che cercano continuamente strade per investire i profitti illeciti. È chiaro che un sistema di controllo si deve precisare meglio, perché il passaggio tra il gestire le scommesse, anche le scommesse clandestine, e truccare le partite è breve. Questo vuol dire che c'è un rapporto troppo stretto, una vicinanza troppo forte tra chi scommette e chi gioca? Sì, io ho riscontrato che ormai in maniera abbastanza evidente questo aspetto, specialmente nelle serie minori, è ravvisabile in indagini di vari uffici giudiziari, sono indagini in corso, altri uffici giudiziari si stanno occupando di questi aspetti, e quindi sicuramente ci potrebbero essere nel futuro altre iniziative dello stesso tipo di quella dell'altro giorno della procura di Cremona. Cioè non si tratta ormai più di un fatto episodico. Alcuni calciatori sicuramente sono contattati da soggetti che svolgono in maniera professionale questo tipo di attività e a loro volta sono collegati ai gruppi camorristici o comunque di tipo mafioso che cercano di ciclare il denaro. Quindi la prima considerazione che viene da fare, al di là dell'aspetto diciamo poi giudiziario, è che i meccanismi di controllo interno delle strutture sportive, a cominciare dalla FIGC o dagli altri enti, sono insufficienti. Sì. Questa cosa l'avevamo compresa per la verità già nel corso di Calciopoli e anche prima, non ovviamente per colpa delle persone che di volta in volta ricoprono determinate cariche, però a loro disposizione sono degli strumenti troppo poco incisivi e quindi sono costretti questi uffici a giocare di rimessa rispetto a tutto quello che avviene nel mondo giudiziario in senso stretto. Cioè, bisognerebbe in qualche modo risolverla, perché il calcio ormai non è soltanto più un gioco, uno sport. È un'industria intorno alla quale ruotano milioni e milioni di euro, ma il percorso dovrebbe essere quello di una authority interna, oppure dall'altra parte si potrebbero ipotizzare strade come una contestazione per le squadre di quella che nei processi è la legge sulla 231, sulla responsabilità amministrativa? No, sicuramente. Non credo che i reati di frode sportiva, anzi ne sono sicuro, rientrino nel catalogo della legge 231 per il quale è prevista la responsabilità per gli enti. Secondo lei va allargata anche alle squadre di calcio? Perché vediamo che ancora si ripetono sempre le stesse cose. Adesso la giustizia sportiva deve fare in fretta ancora una volta, perché fine luglio si devono comunque fare i calendari, e ricordo, è un déjà vu questo, ricordo che la stessa sequenza di cose si verificò nel 2006, ci furono quei processi sportivi che furono molto molto veloci, forse troppo veloci, per cui non riuscirono a digerire tutto quello che c'era. Praticamente la cosa si sta ripetendo. Quindi il fatto che ritorni a riproporsi questa cosa, uno scenario appunto analogo, è un déjà vu come lei diceva, senza che granché sia cambiato, è per scarsa sensibilità da parte anche dei referenti delle autorità sportive, oppure per un tentativo diciamo così di circoscrivere in un angolo i problemi e far sì che queste non intacchino il resto? Mi sembra che questa sua riflessione sì, corrisponde un po' alla riflessione mia e di colleghi con i quali ho lavorato. Sostanzialmente si comprende che gli interessi economici, ma forse anche di tipo sociale, se vogliamo usare questo tipo di aggettivo, intorno al mondo del calcio sono talmente complessi che non si riesce ad avere il coraggio di fare un repulisti vero e proprio, che si sarebbe dovuto fare all'epoca. Io vedo che ancora si discute se radiare o meno Luciano Moggi dalla federazione. È un po' difficile riuscire veramente ad ottenere un repulisti generale, perché probabilmente ci sarebbe una rivoluzione molto molto grossa, quindi probabilmente una sorta di mani pulite del calcio. Ecco, sì. Noi cercammo di iniziarla, però diciamo che l'effetto, la controrivoluzione ci fu subito, mentre Mani Pulite ci fu uno sconvolgimento probabilmente benefico anche all'interno dei partiti che cercarono di trovare delle strade per moralizzarsi. La restaurazione noi la registrammo dopo 2-3 mesi. Cioè noi diciamo che la seconda repubblica del calcio non è ancora cominciata. No, non è proprio ancora iniziata, siamo in piena prima repubblica. Diceva che questi casi e queste inchieste collegate al calcio e alle scommesse, ce ne sono ancora altre di aperte, è un connubio che si ripete di più nel centro-sud? Sicuramente i colleghi e le procure del centro-sud stanno lavorando attivamente anche su questo fronte. Del resto io posso dire che le organizzazioni camorristiche hanno sempre manifestato un grosso interesse verso quello che veniva definito all'epoca il toto nero, il totocalcio clandestino, veniva certo chiamato proprio così, tant'è vero che noi registravamo fino a tutti gli anni 90 una ripartizione degli interessi criminali nell'area metropolitana di Napoli che teneva conto anche dei clan che erano maggiormente specializzati. E quindi con la scomparsa del toto nero si sono semplicemente cambiate le modalità, certo, ma l'interesse dei clan sulle scommesse è rimasto, con l'ulteriore caratteristica che adesso, potendosi utilizzare delle piattaforme online, diciamo, online molto molto articolate, è possibile anche fare delle scommesse in maniera piuttosto massiccia e su partite estere, quindi credo che le mafie italiane oggi riescono ad interagire anche con le mafie straniere. E infatti nell'inchiesta di Cremona abbiamo visto come ci sono anche scommesse sui siti albanesi o sui siti perché adesso è diventato facilissimo, non c'è più il discorso che si vada al galoppino che sta nel quartiere, ai quartieri spagnoli. Quali sono, relativamente alla Camorra che storicamente ha avuto interessi nei confronti del calcio e delle scommesse, forse anche per un discorso, diciamo così, di consensi, quali sono i clan che più di altri hanno interessi nei confronti di questo calcio scommesse? Alcuni clan proprio dalla città di Napoli e in particolare in passato i clan che operavano nei quartieri spagnoli, che avevano un certo monopolio, così come alcuni clan che facevano parte dell'alleanza di Secondigliano, per esempio il clan Lo Russo, però anche il clan Misso della Sanità, eccetera. Quindi tra Secondigliano e la sanità, tra l'area nord di Napoli e il centro storico di Napoli, era possibile individuare una certa dislocazione dei gruppi che si occupavano di questa cosa. Oggi si è allargata anche alla provincia e questo, voglio dire, probabilmente gli sviluppi futuri dimostreranno che anche nella provincia di Napoli i gruppi camorristici si stanno attivamente occupando di questo settore, e anche i casalesi, ma non soltanto i casalesi. Sono più facilmente a rischio squadre che giocano in serie minori per qualche ragione, oppure anche quelle che hanno i bilanci più traballanti? Sono sicuramente più a rischio le società che operano in serie minori, perché sono delle società che anche dal punto di vista delle strutture societarie sono molto deboli e spesso i presidenti, i titolari di queste società sono anch'essi collegati a un sistema imprenditoriale inquinato da gruppi criminali. L'esperienza che si è avuta è quando si va più in alto, forse sono i singoli calciatori strumenti di questi interessi, di queste attività illecite, non sono tanto i presidenti. I presidenti o i gruppi societari sembrano essere coinvolti maggiormente quando si opera nelle serie minori, diciamo, è una tendenza che noi cercammo di individuare all'epoca, che può colpire per esempio il settore arbitrale. Quindi secondo lei le opacità a volte o le difficoltà anche finanziarie delle singole società non rappresentano dei buchi neri che possono lasciare più spazio anche di manovre e di movimento per operazioni poco chiare? In teoria, a livello teorico sì, la sua riflessione è giustissima a livello teorico, però in concreto questa cosa non è stata ancora dimostrata, così come nel calcio Opoli non si dimostrò un collegamento tra il voler favorire determinate squadre per non farle retrocedere o per far vincere lo scudetto, eccetera, la Juventus, che le scommesse, non riuscimmo ad individuarlo, lo si intuiva. Potrebbe essere auspicabile una più stretta collaborazione tra le autorità sportive e quelle giudiziarie, casomai centrali, cioè delle commissioni ad esempio di indagine interne al calcio già ci sono, però non portano risultati. No, non portano risultati appunto perché queste regole vengono fatte dagli stessi soggetti che poi ne sono, diciamo, destinatari, che molto spesso appunto non vogliono avere il controllo. Probabilmente bisognerebbe modificare determinate norme, renderle più stringenti, forse attribuire poteri investigativi più serrati anche agli organi inquirenti interni. Però oppure strade tipo i codici etici come quelli usati e introdotti da Confindustria per il pizzo? Anche quelli potrebbero essere utili. Occorre una cultura diversa, che io vedo che nel calcio non c'è ancora, una cultura del rispetto delle regole che molto spesso viene calpestata perché gli interessi economici sono troppo troppo forti. È un sistema un po' avulso rispetto al mondo reale, cioè i guadagni sono eccessivi, bisognerebbe un po' tornare con i piedi per terra e per poter avere finalmente un calcio pulito che poi abbia veramente anche risultati sportivi veri di cui tutti quanti possiamo gioire. Tante dunque le ombre che si allungano sullo sport nazionale, ma quante inchieste devono esserci ancora perché qualcosa cambi, perché le partite dipendano solo dal campo e non ci siano soldi e scommesse ad orientare pali o traverse, quelli che nell'ultima inchiesta sono chiamati i rischi d'impresa. Ditemi anche voi cosa ne pensate sulla pagina Facebook di Storiacce o sul nostro audioblog. Vi ricordo che questa puntata, come tutte le altre, la potete scaricare anche dal sito radio24.it nella sezione podcast o su iTunes. Ciao a tutti, buon weekend!